erba con la mia tipa. Il telefono mi squilla, mi infilo in fretta i boxer. Appuntamento coi Mila, coi grammi c'è la fila. Corro verso i soldi, 100 metrista. Mi servirebbe una cuta fila, mi sento milanista. Posso schiacciare la tua tipa, ma non voglio farlo. Non la voglio sul cazzo a vita, lasciatemi spazio. Sto alto come lo spazio, non ho spazio in camera. Vendi e Barberry uno sull'altro, sto sopra questi altri. Come se guardo da un balcone, due tipe una sull'altra non mi attirano l'attenzione. Stavo sognando un milione, poi è suonata la sveglia. Mi sveglio la mattina, presto esco in strada e ci resto. Sto su 10 Xanax adesso, mi serve una canna adesso, ti serve un caffè espresso. Non sei sveglio, stai dormendo. Siamo in giro come le metro, gli autobus e i taxi. Dark gang baby, alieni dallo spazio. Sto su 10 Xanax adesso, mi serve una canna adesso, ti serve un caffè espresso. Non sei sveglio, stai dormendo. Siamo in giro come le metro, gli autobus e i taxi. Dark gang baby, alieni dallo spazio. Alieni dallo spazio.